Siamo riemersi, eccoci qua, è il giorno del voto di fiducia dunque. Due frasi intercettate dai tantissimi articoli, ne parleremo poi nel nostro sondaggio, anche noi vi chiediamo secondo voi il governo otterrà la fiducia. E dunque vediamo di prendere il meglio dalle numerose pagine sui giornali. Marco Galluzzo sul Corriere della Sera: se lo guardo in faccia mi viene la nausea. Questo direbbe ormai Berlusconi di Fini. Mentre secondo Matteoli, secondo il ministro Matteoli, ormai non è politica, che non c'entra nulla, è solo una questione di odio di Fini nei confronti di Berlusconi. Ecco, questo è il clima col quale ci si approccia al voto. Pallottoliere pronto, pare che la notte sia stata una notte turbolenta, pare che dall'alba di oggi tutti i parlamentari siano svegli per cercare di capire come andrà a finire. 314 a 313, pareggio, vince Berlusconi di poco, vince la sfiducia di poco, chi lo sa, basterà attendere oggi il Camera, il Corriere a pagina 3, Camera, i sette personaggi chiave della sfida. Il Corriere della Sera mette sette faccine con brevi interviste a Paolo Guzzanti: mi asterrò? Mai, voterò in coscienza. La Siliquini, Future Libertà: quando passi là sotto sei solo con la tua coscienza. Scilipoti, Gruppo Misto: le mie intenzioni di voto le comunicherò all'ultimo. Calearo, Misto: dentro di me sono per l'astensione. Mogherini del PD, che è stata la nostra ospite, nascerà oggi la sua bambina, tanti auguri, chi lo sa, però dice se nasce oggi non posso andare alla Camera, per fair play almeno una deputata della maggioranza non voti. Incredibile, si appella al fair play. Grassano: ero orientato a votare Berlusconi, ma sapete che faccio? Ci penso ancora un po'. Moffa, Future Libertà: la notte è ancora lunga, c'è spazio per trattare. Ma la notte è finita, ma il giornale è stato stampato ieri sera. Chi lo sa come andrà a finire. Intanto Fini, ho citato una di queste deputate, la Maria Grazia Siliquini, Future Libertà, e pare che lei sia veramente in dubbio. E infatti fa un'intervista a Repubblica e dice: sono finiana, ma come faccio a sfiduciare Berlusconi? Mi conoscono tutti a Torino come l'avvocato Siliquini, ci ho messo sempre la faccia, eletta con l'uninominale, sempre stati di centrodestra noi, ho fatto leggi importanti nella scorsa legislatura, come faccio a sfiduciare Berlusconi? Ecco il dramma di Maria Grazia Siliquini, divenuta l'ago della bilancia. Segnatevi questo nome, potrebbe essere decisivo come altri. Maria Grazia Siliquini, se non altro è una decisiva dell'ultima ora. Deciderò 10 minuti prima della chiama, andrò in bagno, mi guarderò allo specchio e deciderò. Tanto che l'intervistatore gli chiede: in bagno, Carmelo Lo Papa, proprio in bagno? Sì, sola con la mia coscienza. Ecco, la coscienza viene citata da tutti i parlamentari, da Guzzanti, da Scilipoti, da Calearo, la coscienza. Solo con la mia coscienza. Intanto continua, secondo anche il giornale, il suk dei deputati, questa volta nell'ufficio di Fini, cioè questo è il titolo del giornale di prima pagina. Fini ha paura, Fini avrebbe... ha convocato, diciamo, i dubbiosi, tra cui anche la Siliquini, tra cui anche Moffa, per cercare di convincerli, mentre Berlusconi ha telefonato a Gianfranco Paglia, finiano, ex paracadutista, rimasto ferito, rimasto in carrozzina nella missione italiana in Somalia, che ha detto: io voto assolutamente per Fini. Ma ecco, intervistato da Antonello Caporale su Repubblica, dice: Berlusconi ha capito, mi ha chiamato, chiedeva, è stato gentile, una chiacchierata serena, anche la Russa è comprensivo, io voto la sfiducia, però non sono convinto al 100%. Ma come? Ritentenna? No, questo no. Ma sentite, ecco, Gianfranco Paglia ne inventa una nuova. Io voterò la sfiducia, ma nel cuore spero che il governo ottenga la fiducia. Cioè, questa è veramente nuova. Voto la sfiducia, ma spero nel mio cuore che il governo ottenga ugualmente la fiducia. Onorevole Paglia, ma lei fa intelligenza col nemico. Ma no, è solo un sentimento. Cioè siamo al delirio ormai di tutti i tipi, cioè gente che cambia casacca, gente che si appellerà alla coscienza agli ultimi minuti, gente che andrà in bagno e si guarderà allo specchio prima di votare. C'è anche Antonio Gaglione, che è l'assenteista numero uno a Montecitorio, che è dato come voto certo per Berlusconi, questo fino a ieri, ma sempre intervistato da Repubblica dice: in realtà no, andrò al Parlamento ma mi asterrò, sono per l'astensione, sicuro? Sicuro? Lo prometto, mi astengo. Oh, segnateveli tutti, poi andremo a vedere. In ogni caso la situazione è questa, c'è anche chi, a me viene da ridere, scusate, ma l'onorevole Palumbo, che è ginecologo della Camera, che dice: un parto alla Camera, perché ci sono tre deputate incinte, ma siamo pronti a intervenire, ci sono dei deputati ginecologi, ma un parto alla Camera forse non siamo attrezzati. La fiducia o la sfiducia è appesa a tutto ciò. E va bene, intanto continua il piano B secondo qualcuno, e cioè per esempio per Repubblica ma anche Libero. Il piano B sarebbe questo: se Berlusconi ha la fiducia si va avanti fino a febbraio cercando di allargare la maggioranza all'UDC. Mentre che cosa continuano? Le accuse di mercato. Secondo il Fatto Quotidiano, a pagina 4, ci sarebbe un avvocato pentito dietro l'esposto che l'Italia dei Valori ha portato in procura a Roma per il presunto mercato dei deputati. La gola profonda sarebbe un avvocato che sarebbe stato arruolato mesi fa per radunare parlamentari che avrebbero potuto sostituire i traditori Finiani. L'operazione non è andata in porto e a convincere l'avvocato a parlare sarebbe stata proprio la mancata ricompensa per la trattativa fallita. Cioè, a convincere l'avvocato a parlare è una questione di denaro. Alla fin fine, sempre quello è, di denaro che non gli è stato corrisposto per questa trattativa fallita, e dunque vuole denunciare l'eventuale tentativo di compravendita di parlamentari. Chi mugugna un po', e attenzione perché tutti dicono sarà l'ago della bilancia che potrebbe far cadere poi la legislatura, far finire la legislatura anche dovesse arrivare la fiducia, è la Lega. E infatti Bossi ha detto: non accetteremo maggioranze risicate. E Nino Ciravegna per il Sole 24 Ore va a sentire un po' la base leghista, i sindaci del Carroccio, da Fontana, sindaco di Varese, a pagina 3 del Sole 24 Ore, che dice: il dibattito in Parlamento non porterà chiarezza. Maurizio Ronchi, sindaco di Brugherio, alle porte di Roma, di Monza: il governo non deve cedere a ricatti di un neofascista che ha tradito gli elettori, si riferisce così a Fini. Giampaolo Gobbo, sindaco di Treviso: l'unica cosa che non possiamo permetterci è l'incertezza. Insomma, la Lega mugugna, sta sulla porta a vedere come andrà a finire il voto. Ma la sensazione che anche se ci fosse una fiducia risicata, questo non potrebbe non bastare a Umberto Bossi. Cosa si attende anche oggi? Lo dicevamo ieri, le proteste. Il quarto Stato marcia su Roma, secondo il Fatto Quotidiano. Continuano i giochi di palazzo, i cittadini assediano la Camera, anche terminologie non molto simpatiche utilizzate. Assediano, marcia su Roma. C'è una zona rossa molto molto ampia, come fa sapere il Messaggero, e il Manifesto in prima pagina fa un lungo articolo poi all'interno con Loris Campetti. Beh, il Manifesto mette una costruzione che sta cadendo, una costruzione di sedie che sta cadendo, guarda come dondolo. Questo è il titolo di prima pagina del Manifesto, riferito ovviamente al governo, insomma, in bilico. E Loris Campetti racconta della piazza del popolo: i banchieri non saranno in piazza a Roma oggi, neanche i teorici del liberismo e chi vede nel PIL la chiave di lettura per leggere il grado di felicità e sofferenza dei popoli. Dice Campetti e scrive: circondare i palazzi della politica non è la spallata finale al governo Berlusconi, ma è la rivendicazione contro chiunque tenti di scaricare i costi di un'ipotetica ripresa sui più deboli, distruggendo relazioni, risorse, lavoro, ambiente e futuro di milioni di giovani. Insomma, c'è anche grande attesa per le manifestazioni, grande tensione per le manifestazioni in piazza. Mentre segnalo sulla Stampa, per chiudere l'ampia pagina politica, che poi riapriremo il nostro sondaggio, un'intervista a Giuliano Ferrara e a Massimo Cacciari. Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, viene intervistato da Michele Brambilla e dice Ferrara: Tecnicamente sapete che succede? Non succederà niente oggi. L'unica cosa è certa è che Berlusconi si è indebolito, ma non esiste un'alternativa a lui. Lo dico come paradosso: se oggi Berlusconi perdesse la fiducia per uno o due voti, sarebbe come se la prendesse per uno o due voti. Il Parlamento resterebbe diviso. L'errore comunque di Berlusconi è stato quello di avere buttato fuori Fini invece di usarlo. Usarlo? Sì, usarlo, tenendolo nel PDL una voce diversa e anche critica. Così Berlusconi avrebbe dimostrato che il suo ombrello era larghissimo. Poi comunque un Ferrara che critica anche lo stesso Fini, dice: si è messo nei guai, a un passo dall'apparire il leader un po' vago di uno schieramento che non si capisce bene cosa sia. Ci sono per me due Fini. Il primo è quello che, dopo essere stato costretto a diventare il cofondatore del PDL, ha pensato: va bene, adesso mi gioco una carta solitaria. Il secondo Fini è colui che ha fatto un uso improprio della presidenza della Camera, quella che Libero oggi titola e riassume con l'ultima porcata, o meglio la porcata finale, cioè Fini che in difficoltà, racconta il direttore Maurizio Belpietro, che ha fatto ieri, ha convocato, dopo aver smesso i panni da presidente della Camera, ha preso quelli di capogruppo di Futura Libertà, di presidente di Futura Libertà, e ha convocato i dubbiosi per cercare di convincerli. Questa è la situazione. Siamo appesi a voti e alla coscienza dei deputati che la ritroveranno poco prima del voto in bagno. La FIOM ferma il cambiamento, è ciò che ha detto il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Oggi lo trovate a pagina 7 del Sole 24 Ore. Tra l'altro è la prima volta che parla il presidente di Confindustria dopo il viaggio negli Stati Uniti e il colloquio avvenuto a New York con l'amministratore delegato della Fiat Marchionne. Sapete che il tema delle relazioni sindacali, delle relazioni industriali, è il tema che coinvolge il Lingotto in questi giorni. Ieri parlavamo della critica di Bonanni, che ieri è stato contestato alla presentazione di questo libro, in cui era presente anche la Marcegaglia. L'ennesima contestazione, l'abbiamo sentito nel GR nei confronti di Bonanni. Ieri le critiche di Bonanni a Marchionne, ora invece Marcegaglia che critica la FIOM, c'è un sindacato che non vuole portare avanti il cambiamento, la Fiat vive in alcuni stabilimenti una situazione di forte conflittualità con tassi di assenteismo che arrivano all'11%, tutto ciò non è normale. Ma certo c'è grande discussione ancora. Il Sole 24 Ore per esempio è andato a sentire con Paolo Bricco le voci delle imprese che giudicano la decisione di Marchionne, quella cioè di volere uscire temporaneamente da Confindustria per portare avanti questo progetto della NewCo, un contratto per la globalità. Gli imprenditori che dicono, come Walter Fontana, il mondo accelera, in maniera magari anche un po' tranchant, Marchionne ha ragione e punto. Chi vuole competere con tedeschi e francesi, cinesi e indiani non può avere le braccia legate, mentre c'è chi come Filippo Girardi si auspica invece un rientro da parte del NewCo in fretta in Confindustria. Sta di fatto che davvero la decisione di Marchionne fa molto discutere il mondo del lavoro, il mondo delle imprese, il mondo del sindacato. C'è anche però un piccolo giallo, tra l'altro, che troviamo in un piccolo corsivo sul Sole 24 Ore, pagina 6, e vale a dire Federauto. Federauto che dice, proprio per sulla discussione del futuro assetto contrattuale per l'auto: esistiamo già e il marchio è già registrato e dunque c'è un primo stop sul nome, proprio Federauto, perché Federauto dice: se il contratto si farà, l'associazione dovrà cercare altrove il proprio nome. Federauto infatti esiste già, come ricorda il presidente Filippo Pavan Bernacchi, rappresenta 3.800 concessionarie che movimentano il 6% del PIL e dunque il nome della categoria è stato registrato a maggio. Usarlo per una nuova struttura da parte di Marchionne sarebbe solo un'inutile confusione. Dunque c'è un piccolo giallo sull'utilizzo del nome Federauto, che già è stato depositato e dunque ha il copyright. Troviamo delle pagine interessanti oggi sui giornali per quel che riguarda l'immigrazione. Intanto questo dato dell'ISMU che abbiamo sentito anche nel corso del notiziario: la crisi ha colpito soprattutto gli immigrati. Ora c'è la certificazione dal fatto che 100.000 sono gli immigrati in meno nei primi sei mesi del 2010, cioè immigrati che vanno via, lasciano l'Italia, colpiti evidentemente dalla crisi economica. ne parlano tutti i giornali, mentre Repubblica si concentra su quello che è il nuovo flusso di decreto flusso immigrati che è pronto, lo racconta Vladimiro Polchi a pagina 23, dalla colfa al muratore l'Italia apre le porte ad altri 80.000 stranieri. È pronto il nuovo decreto flussi del governo, gli ingressi saranno nel 2011, i posti anticipati da Repubblica sono 30.000 per le badanti, 50.000 per le nazionalità privilegiate. L'ultimo decreto flussi risale al 2008, ma sarebbe tutto pronto per un nuovo decreto flussi del 2010 con 80.000 nuovi ingressi di immigrati. A proposito di immigrati, voglio raccontare una storia che trovate sia sulla Stampa, scritta molto bene come sempre da Pierangelo Sapegno, sia sul giornale. Sulla Stampa è così: la seconda fuga della Oliver Twist, schiava dell'elemosina. È la storia di una bambina roma di 12 anni che si è ribellata alla mamma, e non è la prima volta che lo fa, l'aveva già fatto quando aveva 7 anni, ed è fuggita dalla madre perché si rifiutava da più anni di chiedere la carità per strada, come spesso purtroppo vengono usate, e uso questa parola, le bambine e i bambini rom. Aveva detto che si vergognava di vendere quei piccoli oggetti e dunque ha preso il primo treno, e non è la prima volta, ripeto, ed è fuggita. Sul giornale, tra l'altro, questa è raccontata giustamente come una storia drammatica ma a lieto fine, la bimba rom che si ribella alla vita di elemosine. Luciano Gulli, che ne racconta la storia di Daniela, Asan, 12 anni, scomparsa da casa, si rifiutava di raccogliere appunto l'elemosina e alla fine, dopo 5 giorni, i carabinieri che l'hanno trovata sono riusciti a farla parlare e ha raccontato tutta la sua storia. Ora ecco qui il finale positivo: vive in una famiglia di gente per bene, avrà vestiti puliti, libri di scuola, un bel Natale. Insomma, ha deciso ed è riuscita a ribellarsi, questa bimba rom, allo sfruttamento da parte dei suoi, del suo clan, insomma, dei suoi genitori. Che devo dire? Mi devo fermare? Sì, Peter dice di sì, mi devo fermare. E allora, ci fermiamo. Votate il sondaggio, ci sarà la fiducia oggi, ora il GR.